Zot. Fulminati in azienda. Schedula, la casa madre ci impone una rivoluzione organizzativa, è una vera apocalisse. La riduzione del numero dei vice direttori, da 14 a soli 8, al massimo 8. Sì, ma come facciamo? Sono tutti dirigenti storici, non possiamo mica licenziarli così. Cioè, ho capito, il problema, cara Schedula, è che in particolare c'è la casella di La Porta che è non gradita dalla casa madre. No, ma questo è un disastro. Ma come facciamo? L'abbiamo appena nominato vice direttore delle politiche sovra-interrelazionali. Comunque, Schedula, detto tra noi, è anche una buona occasione per far fuori La Porta, con i suoi intrallazzi, un personaggio scomodo. Sì, ho capito, però allora bisogna dirgli che non ha più la vice direzione, resta soltanto la responsabile. Ma come? No, non gli si dice niente, sennò quello lì fa casino. E come non gli diciamo niente? Scusa, no, ascoltami bene, la casa madre ci chiede di ridisegnare l'organigramma e noi lo ridisegniamo. E poi si vedrà, il tempo ci aiuterà, no? Tempora, currum. Marco, buongiorno, disturbo? Ma figurati, la mia porta è sempre aperta per te. La porta, vieni, accomodati. Grazie. Senti, vuoi un caffè, un cappuccino, un martini cocktail? Un caffè, volentieri. Vedi, caro Marco, dimmi. La gente dice che tra noi non scorre buon sangue. Ma questo non è per niente vero. Assolutamente non è vero, sei un collega stimatissimo. Ecco, e la gente dice che ognuno di noi ha la sua cordata e che spesso ci siamo messi i bastoni in mezzo alle ruote. Ma non ci posso credere, La Porta, io ti ho sempre appoggiato. Certo, anch'io ti ho appoggiato per la tua ascesa. Ma vedi, sempre la gente dice che uscirà un nuovo organigramma e che spariranno cinque vice direttori. Ma chi è che mette in giro queste dicerie? Delle falsità. Qualcuno mi ha detto che la mia posizione non ci sarà più. Ma questo lo so anch'io che è impossibile. Non è vero, Marco? Fantapolitica. Appunto, anche perché l'onorevole amico mio che sta per entrare nel consiglio di amministrazione non vorrei che si infastidisse e perdesse la stima che ha in te. Non sia mai, La Porta, e per quanto riguarda te stai certo che mi occuperò personalmente che queste dicerie vengano messe a tacere. Cuccio il pane, cuccio il pisce, sto malocchio Magari, disparisce. Scusi, prego, dottore, si accomodi. L'aspettavo. Ma come mi aspettavo? Maga sono. Ma io, non lo so quando mi viene la disturbo e no. Ho un problemino, glielo devo dire. Col mio rivale, La Porta, io gli ho cancellato una casella, no? E il suo amico onorevole mi ha chiamato e mi ha fatto capire. Ci ha fatto capire che la casellina che la casa madre aveva deciso di cancellare ce la dobbiamo ridisegnare di nuovo. Esatto, Maga, ma come fa a saperlo? Ma ci pare che sia dalla prima azienda che magheggia per salvare capri e cavoli, ma fino a... Poi venga, prenda questi prodottini che sistemiamo tutti. Ma cosa mi sta dando, Maga? Ecco. Del bianchetto, sì. Il righello, la matita? Ma che cosa devo fare? E come dice? Lei prende l'organigramma e ci fa una nuova casella e ci mette un nome di quelli inutili, però che fa la sua figura. Ma tipo, che non so... Innovation and Quality. Mi sembra importante. Però... Attenzione, me la disegna un pochino più in alto delle caselline del personale, del commerciale e della comunicazione. Sì, mi scusi la domanda, Maga, ma più in alto di quanto? Ma che so, un centimetro di più? Lei deve dare l'impressione che è sì allo stesso livello gerarchico delle altre caselle, ma la tanticchia più importante. Maga, ma è straordinario. Sembra ma non è, oppure è ma non sembra. Vede che m'ha capito? Dottore, questa è la magia dell'organizzazione. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.